24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Una signora mi ha chiesto perché quando vai a Roma non vuoi più tornare a casa. Io gli ho detto così: non sono i privilegi, sono la gnocca e il tempo. Mi sbaglio? Non mi sbaglio, secondo me. Parola di chi? Di chi? Di questo deputato di Scelta Civica, si chiama Rabino, come si chiama? Onorevole Rabino, beccato in un fuori onda a Striscia la Notizia, è tutto molto chiaro. Paola Saluzzi, buongiorno, è tutto molto chiaro. Ma che tristezza! Ma che tristezza! Mamma mia, Alessandro, buongiorno! Buongiorno! Buongiorno a tutti! Sai perché te lo faccio sentire subito? Perché oggi questo onorevole Mariano Rabino, su Libero, mette il carico da 90 e dice: no, non parlavo di la gastronomia, proprio lo ammetto, di belle ragazze a Roma ce ne sono tantissime, soprattutto le giornaliste! Soprattutto le giornaliste. Come dire, onora il fatto di sapere che nella capitale ci siano tante belle donne, ma della serie, ma che figura di carta straccia, ma che figura di carta straccia. Soprattutto le giornaliste, ma che vuol dire? Soprattutto le giornaliste, vabbè, ho capito, ci sono delle belle giornaliste, non lo so, io non... Va bene, queste 24 mattino, volevo subito un editoriale di Paola Saluzzi su questo, che dire... saluto Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Sono le 6:31 minuti, possiamo aprire il Parlamento, dove c'è anche subito il nostro Luca Dini, direttore di Vanity Ferma. Ma insomma, caro Luca Dini, buongiorno, dovevo subito avere un editoriale in battuta, come si suol dire, dalla nostra Paola Saluzzi, che doveva commentare il nostro onorevole Mariano Rabino, di Scelta Civica. Mai fuori onda quando si va in TV, quando ti mettono un microfono addosso, da quel momento sei finito qualunque cosa dici. Vabbè. Nemmeno pensarla, è vietato anche pensarle, capito Paola Saluzzi? Dovrebbe... Ho capito. Ma noi siamo funamboli, cosa vuoi Milan? Noi il lunedì sera alle 21:10 seguiamo funambulismi, signori, diciamola tutta. Sai com'è. Noi seguiamo. Hai fatto l'andamento spot di questa strana città, carica di politica e non. Bene, andiamo avanti. Grazie, cara Paoletta, mi fai sempre della ottima pubblicità. E allora, allora io di cosa voglio mettere insieme due notizie. Non voglio parlare subito di politica, perché ragazzi è uno strazio ogni giorno. Oggi siamo a 7-8 pagine di apertura dei giornali per la questione decadenza non decadenza. Berlusconi cosa fa non si sa, cambiare la legge Severino non cambiare la legge Severino, non progrediamo di un millimetro e sempre le stesse cose sui giornali. Allora io vi voglio porre due altre questioni. La prima è questa: secondo voi che cosa ce ne frega e che cosa frega di chiedere a questa testimone lì, come si chiama, la rumena, la moldava, Domenica Cemortan, a chiedere: senta, ma lei era l'amante di Schettino? Ecco, ai fini processuali, cara Paola Saluzzi. E infatti oggi i giornali di cosa parlano tutti? Non del processo, ma del fatto: era l'amante di Schettino. Eccola lì. Azzardo. Potrebbe avere un valore se effettivamente l'uomo avesse fatto, come dire, delle bravate con questa ospite in plancia, potrebbe avere un valore solo da questo punto di vista. Ma sì, era cena con lei, ma poi... È la risposta che ha dato lui, è il non fuori onda che ha dato lui, che è singolare. Leggete oggi il finale del pezzo sulla Stampa, insomma, ti si drizzano i capelli in testa. Non l'ho ancora letto, che ha detto? No, la devo subito recuperare. Ecco, mi ha fregato sulla Stampa. No, è soltanto per dire, non so, sento anche il parere del direttore. Datemi la Stampa! Ecco. Milan! Ecco! Fermo! Dov'è la Stampa? pagina, va bene, ma noi siamo meglio della stampa, noi abbiamo, no. abbiamo l'audio, sentiamo. Chiedo gentilmente di sapere se lei ha avuto una relazione sentimentale con il comandante Schettino prima o durante o insomma anche successivamente alla sera del naufragio. Ha avuto relazione sentimentale? Sì. Ha avuto una relazione sentimentale. Una relazia. Ma eccolo qua, l'ho beccato! Cosa avrebbe detto Schettino, finita l'udienza, addentando una pizzetta? Ma che le è saltato in testa quella là di dire che avevamo una relazione? Doveva solo dire che abbiamo avuto un flirt, però l'espressione pare un po' più colorita. Insomma, per uno che si presenta come Ulisse, che ha salvato tutta la sua scialuppa e truppa e che ha fatto il miracolo di appoggiare, insomma, voglio dire, un po' di grazia. Mi dispiace per lei perché la questione è più profonda, nel senso, al di là della dichiarazione, caro Luca Dini, oggi tutti i giornali, invece di parlare del processo, cioè titolano questo: la ballerina moldava, ero l'amante di Schettino, Dominica getta la maschera, ero l'amante di Schettino, cioè non c'è il rischio poi, direttore, che adesso il processo prenda questa bella piega, no? Come dire, da feuilleton, e ci dimentichiamo che ci sono state diverse vittime e la questione assolutamente. Cioè, è una storia che prende una piega, tra l'altro, maschilista, un po' razzista, perché insomma la ballerina moldava, la donna esotica di faccia, di costumi, tutto il copione, diciamo. Poi alla fine andrà a finire che la colpa è sua. Cioè, beh, colpa della ballerina. Però Luca, dobbiamo fare questa. Luca, scusami, ti devo interrompere. Dobbiamo fare questa cosa. Ti dobbiamo richiamare perché ti sentiamo, non so se in una caverna, magari sei in una caverna. Paola, saluti. Sei in una caverna. No, proviamo a richiamarti perché la linea cellulare è davvero di quelle pessime. Proviamo a vedere se va meglio tra poco. No, il rischio è questo, cara Paola. Cioè, che addirittura dice Luca Dini, va a finire che la colpa adesso era dell'amante. Moldava, no, ma sai come funziona poi in Italia? Tutti si interessano poi della, no, della vicenda, no, pruriginosa. Ma allora, io Andrea, adesso vorrei capire quanti ceffoni la moglie di Schettino darà a Schettino. Vabbè, questo è scassettoni, come si dice da quelle parti. Questa però è un'altra cosa, ma sono problemi loro. Ma cioè, il problema è vero, è che questo signore sino ad ora sta dicendo che i comandi non li ha capiti il suo secondo, sì, che pioveva, c'erano le cavallette, che i giovani vogliono tutto e subito, che non ci sono più le mezze stagioni e che i neri hanno il ritmo nel sangue, cioè sta dicendo una serie di cose che non hanno niente a che spartire con una parola che si chiama responsabilità. Sì. Non si vuole un colpevole a tutti i costi, si vuole una persona responsabile. Si vuole capire che è successo, sì. E che è successo? Abbia fatto il militare a Cuneo o chiunque abbia un senso, diciamo così, del comando, sa che se comandi molto spesso ti porti anche appresso delle colpe che forse non sono le tue, ma sei il comandante Luca Dini. Comandare abbiamo, vuol dire comandare. Abbiamo una linea migliorata, sono sicuro. Sono uscito dalla caverna, eccoci qua. Eccolo. No, il rischio, dicevi tu addirittura, che la colpa adesso diventi al processo colpa di Dominica, la hostess moldava, già che viene definita così dai giornali, no? No, sì, poi dicevo Radino, Schettino, non è che c'entra qualcosa con, non so, queste espressioni, diciamo, un po' da non lo so, da gaga. No, speriamo davvero così, però oggi sui giornali prende la scena, no, la relazione sentimentale. Volevo invece introdurre quest'altro argomento, a me ha veramente sconvolto, allora, siccome ho due persone che su questi temi sono anche molto sensibili, la vicenda a Roma, cara Paola Saluzzi, di due ragazzine di 14 anni che si prostituivano. Allora, a me di tutto questo dico, c'è in una delle due storie la madre di una di queste due ragazzine di 14 anni sfruttava la figlia, cioè, ma almeno questo secondo l'accusa, secondo quanto si è accertato. Allora, che cosa vuoi aggiungere? C'è una parola da aggiungere di fronte a una situazione del genere? Spero che la figlia possa andare in Nuova Zelanda a rifarsi una vita. No, perché dimenticando tutto e tutti, perché è la storia più brutta, più schifosa, non ho un altro termine, aggettivo, schifosa, che si potesse leggere sui giornali in questi giorni. Perché se la leggi nelle zone più depravate, più tristi, più degradate del mondo, dici mamma mia, ti viene la pelle d'oca. Sapere che sia avvenuto a un quartiere da te, beh insomma, a un quartiere come nella tua città, come insomma in un mondo che dovrebbe... Sì, ai Parioli tra l'altro, no? Sì, ma adesso sarebbe interessante però vedere chi ci andasse con queste ragazze. Ma verrà fuori, verrà fuori, pare un giro di persone disposte a pagare 300 euro, 400 euro. Cioè, E in più la madre, come dire, certe volte, certe donne sono madri perché partoriscono. Punto. No, la vicenda ovviamente è da chiarire. Oggi Repubblica fa due pagine, pare che insomma stiano venendo fuori nuovi particolari, appunto del giro di sfruttamento terribile. Luca Dini, insomma, non è neanche facile fare considerazioni, bisognerebbe conoscere anche un po' la storia, non rispetto a quello che dicono i giornali, che è qualcosa, ma chissà poi scavando sotto che cosa c'è. Certo, a me ha sconvolto, cioè capire se la sfruttatrice in questo caso è la madre, che aveva trovato un modo per fare dei soldi sul corpo di sua figlia di 14 anni, ma cosa devi aggiungere di più? Cosa devi commentare? Luca. È difficile commentare, vorrei solo dire che l'Italia è un paese dove ci sono vari signori che comunque vanno, di solito non a Roma, ma vanno in Thailandia o a Santo Domingo a cercare ragazzine di quell'età, vendute da anche lì spesso dai genitori, certo in condizioni, in un contesto molto diverso, però la responsabilità e la vergogna di chi se ne approfitta è la stessa. È la stessa, no, ma certamente. Anzi, forse è peggiore, perché approfittarsi della povertà sicuramente è peggiore. Approfittarsi della povertà aggiunge alla cosa uno schifo di più. C'è da dire che verranno fuori dei particolari. Da un certo punto di vista, cara Paola Saluzzi, viene quasi da dire di no. Invece tu in particolare, cioè capire, vorresti sapere chi sono le persone che vanno. Ma c'è un motivo. Allora, da quello che leggo, c'erano problemi di debiti in famiglia, tu puoi avere tutti i problemi del mondo, ma quando intuisci che tua figlia sta facendo una cosa che per togliersela di torno e per guarire le costerà moltissimo, perché è l'equivalente di avere un bambino soldato, spingere una figlia a fare a un mestiere del genere, va bene, sto parlando della ragazza più piccola, la prima è una ragazza devastata da se stessa, che avrà molto più bisogno d'aiuto, ancora più bisogno d'aiuto, ma tu sei la madre, lo sai e mandi avanti? Ah no, certo, e secondo l'accusa addirittura sfrutti, cioè utilizzi... È cannibalismo questo, una cosa incredibile. Ribadisco, ci sono donne che sono madri semplicemente perché dopo 9 mesi hanno le doglie e danno la luce. Infatti chiedo scusa se no, ma è chiaro, ma guarda, in questo caso assolutamente concordo. Nella confessione che racconta Repubblica, pagina 19, proprio la prima a crollare, questa ragazzina di 14 anni, io voglio andare a scuola, volevo solo tornare a scuola, esatto, voglio tornare a scuola, che dice non ce la faccio più, mi obbligano a fare questo, io volevo solo, sognavo solo di tornare a scuola. Posso aggiungere una cosa, che ha ragione Paola, e questa è la dimostrazione che la genitorialità non è un fatto biologico, affatto, cioè essere genitori è una responsabilità, e si può essere genitori senza aver partorito, questi non sono genitori. Certo Luca. Certamente. Allora, come dire, invece, per quel che queste sono le notizie di cronaca che più campeggiano sui giornali, devo dire che invece per quel che riguarda la politica, magari tra poco ci arriviamo, per quel che riguarda l'economia, la cosa interessante è questa. Cara Paola Saluzzi, preparati a pagare più tasse a Roma, nel decreto enti locali abbiamo dato, noi italiani, diamo 400 milioni a Roma, li senti già i leghisti? I leghisti ladrona Roma ci fa schiavi di Roma, 400 però insomma è 400 milioni a Roma, con la possibilità a Roma di aumentare l'IRPEF dall'anno prossimo da 0,9 a 1,2%, forse 1,5%. Quindi vi diamo soldi e poi, non contenti, il Comune di Roma ve ne chiederà un po' di più a voi questa volta. Perché abbiamo il Colosseo e il Papa, capito? Avete il Colosseo e il Papa e quindi vi tocca fare questa cosa qua, pagare più tasse. Che dobbiamo dire? Per quel che riguarda la politica è tutta una noia mortale, guardate, cioè Come ma Napolitano ha dato i 7 giorni però, attenzione. Sì, attenzione, Napolitano ha detto fosse per me la legge elettorale si farebbe in 7 giorni. Io rido da questa mattina alle 5, sono arrivato, se ricordiamoci che siamo alla 26esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Facciamo questo pronostico prima del traffico. Caro Luca Dini, quando si farà la riforma elettorale? Forza, su. Beh, forse devo dire, se ci si mette Napolitano, in 7 giorni la fanno davvero. Voglio dire, mi viene in mente che se non ci pensa lui, cioè, mi pare che sia l'unica persona che fa succedere le cose. Eh sì, solo che non la deve far lui. Questo, lui dice dipendesse da me. Tu, Paola, che dici? 30 quando... novembre. 30 novembre? Ma che? Che ce la giochiamo all'8? Non ho capito. Perché 30 novembre? Perché il 30 novembre? 30 novembre, un mese esatto. Oh! Paola Saluzzi sa le cose, qua bisogna che ha delle fonti, ha delle fonti, 30 novembre, oh ce lo segniamo, tanto ce lo giochiamo all'8, 30, 11, un bel lambo sulla ruota, che ruota cara Paola? Roma, mettiamo 30, 11, l'IRPEF all'1,5%, quindi 30, 11, 15, terno sulla ruota di Roma, l'ha deciso Paola Saluzzi, andiamo a sentire il traffico, va. 24 mattino. Respiro. 1, 2, 3. Salve Nina, qua non è che serve né forconi né niente. Che non le sembra strano che questi signori politici, questa classe politica che ci governa, preferisce svendere tutto? Le ultime imprese che ci sono rimaste dicono ora per salvare l'Italia, piuttosto che non tirarsi via un vitalizio loro, un qualcosa loro, abbassare le pensioni d'oro, qualcos'altro, cioè preferiscono affossare l'Italia, affossarla, e dopo lei mi dice che sono italiani. C'è una cosa assurda, io ho un'attività, cioè e in 8 persone non fatturiamo neanche quello che apprende Befara su un anno, le sembra giusto? Sono partito stamattina da Vienna, arrivare al confine, dunque l'autostrada 8,50 euro la utilizzi per 10 giorni, il gasolio e la benzina costa 20-30 centesimi in meno, ma soprattutto è tutto pulito, non c'è immondizia da nessuna parte. Qua è immondizia dappertutto. Italia, città d'arte e cultura, che tristezza. Aiutiamola, buttiamo nel bidone l'immondizia. Ciao Milad, tu e la Loredana siete una coppia fantastica, bravo. Cari politici, vi state scavando la fossa, prima o poi andrete tutti quanti a casa e farete i conti col vostro destino. Vergognatevi, ci state ammazzando. Una volta si chiamava fa la spia, e mo si dice fa il monitoraggio. Milioni di stronzate, mamma mia, a sentissele tutte, è un gran coraggio. Non lo so, credo che fosse un editoriale su Datagate, questo qui. La chiavetta di Putin. Sì, ma vogliamo parlarne, Luca Dini. Cioè, arrivano questi, i russi ti regalano, guarda che bello, ti regalano una chiavetta. Cioè, nell'era, e uno non gli viene il sospetto che dice, ma come una chiavetta? Metto nel computer, nell'era della tecnologia, no? Sì, sì, guarda una chiavetta, il collegamento per il tuo cellulare. Guarda che bel gadget che ti diamo, no? A Obama. E uno è così scemo, Obama, di mettere nel cellulare una roba fatta dai russi, no? Perché, ma io ragazzi, ma basta vedere mezzo James Bond per capire. Ma è la barzelletta di Obama? La barzelletta di Obama, qual era? Obama, il bambino che dice a Obama, ma presidente, il mio papà ha detto che ci spiate le telefonate. E lui fa, no bambino, non è tuo padre. È meraviglioso. Vabbè, ma insomma, invece non è una barzelletta. L'NSA pare, invece, questa palla staluzza è vero, per l'Italia, spiate l'Italia, no, facciamo l'abbonamento ai giornali, ci costa meno. Leggiamo tutto questo. Vabbè, insomma, è l'angolo del cazzeggio. Belle rimpallo tra spioni. No, non siamo noi che stiamo voi. Siete voi che spiate gli altri, vicini di casa. Certo. Allora, secondo me l'attimo più profondo e più alto ieri della politica si è toccato all'interno del Partito Democratico con sentite questa. Candida, basta. Ho detto qualcosa che non va? Con quella bocca può dire tutto ciò che vuole. Clorodon? Clorodon? Ottima scelta. Clorodon, te lo ricordi, Palasaluzzi? Sì, con quella bella, bocca. Bella. Hanno litigato su Virdalisi, D'Alema e Renzi. D'Alema che dice di Renzi, con quella bocca può dire ciò che vuole. Mi ricorda Virdalisi e Renzi ho spedito a Virdalisi. Mamma mia, ragazzi. Vabbè. No, e a D'Alema hanno dato della gloria Swanson. Sì. E non lieto l'onorevole Sandro Gossi ha detto più che Gloria Swanson, Nilla Pizzi. Nilla Pizzi, cioè, quindi Nilla Pizzi, Gloria Swanson e Virdalisi. Questo è stato il dibattito ieri nel Partito Democratico. All'interno del PDL, guardate, non voglio manco addentrarmi, voglio invece vedere sulla copertina di Vanity Fair, cara Paola Saluzzi, sai chi c'è? Una persona che anch'io adoro, è straordinaria, non mi perdo una puntata di X Factor, eh? Simona? No, ma dai, ma chi se ne frega di Simona? Su, il protagonista di X Factor, chi è? Alessandro. Chi è? Catelan. Ma dai, mica! Ma dai, mica! Ma insomma, ma io andavo sugli italiani, mica male. Che fa questa confessione, cosa vuole? Gay e padre, eccolo lì, introduce questo caro Lucadini, gay e padre, che male c'è, dice mica. Vabbè sì, lui dice, è un diritto, lui dice sostanzialmente, chi pensa che io non possa essere un buon genitore non ha capito niente. Forse non mi voglio sposare, però sicuramente voglio dei figli. Noi insomma prendiamo atto. Esatto, fai un po' democristiano qui. Io l'ho sempre detto e non ho paura di dirlo, sono contrario all'adozione per gli omosessuali. Tu Lucadini che ne pensi? A parte prendere atto, fare l'intervista eccetera. No, non lo so, onestamente non lo so, non sono contrario, non so neanche quanto sono favorevole. Credo sia veramente una questione di abitudine, di evoluzione, di contesto. Ho questa sensazione, ho la sensazione che fra un paio d'anni non direi più sono contrario. Non lo so, ma infatti può essere, al momento sono contrario, ma nel senso so benissimo che succede, ci sono già tanti coppie omosessuali che hanno dei figli, voglio dire, non è che sono contrario per cui è una cosa vietata, tabù, come in tutte le cose si hanno delle posizioni. Tu Paola Saluzzi che ne pensi su questa vicenda molto complicata? Abbiamo parlato poco fa di una genitorialità, vabbè, abbiamo parlato di un caso... Tragico ed estremo, è molto, molto difficile, non per essere né democristiani né stare in mezzo, è molto difficile, forse come dice Lucadini correttamente serve tempo non certo perché l'idea che si possa negare la paternità o la maternità sia giusta, perché tu in fondo neghi il più sacro dei diritti a qualcuno che ne ha voglia e che sarebbe anche pronto a fare bene. Dobbiamo cambiare prima culturalmente noi, nel nostro paese, e poi possiamo procedere. Quello che vi posso dire è che a pochi, insomma, vedere da lontano, dalla finestra, il palazzo dove si è tirato giù dalla terrazza un ragazzo di 21 anni perché non sopportava più di essere gay e non sopportava tutto quello che gli dicevano intorno, va oltre il problema della genitorialità e ti porta a dire siamo pronti come paese ad accettare, a capire e a non portare le persone all'esasperazione a questo punto. Non era un ragazzo con problemi mentali, non era un ragazzo con problemi di depressione, era uno studente di medicina, era una persona... Anzi, che viveva in una famiglia che gli voleva un mondo di bene. No, ma infatti questo vedo che anche su Vanity Fair... Prima questa mentalità. Credo Daria Bignardi oggi scriva su Vanity Fair con questo... Vi devo salutare, grazie a Lucadini, grazie a Paola Saluzzi che ritroviamo su Sky alle 3, sempre Sky TG24 pomeriggio, lo ricordo, alla prossima giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci, eccoci pronti a leggere i giornali, cari ascoltatori. Siamo qui, vi ricordo che alle 7:19 minuti, dunque tra un'ora esatta, alle 8:15, approfondiremo che cosa è il tema dei costi della politica. L'ultima vicenda è quella delle regioni dell'Emilia-Romagna, dove ci sono delle spese pazze, diciamo così, contestate, ma non è che ci concentreremo solo sulle spese dei consiglieri regionali, ma anche sulle spese di comuni, di amministrazioni, province. Pensate che c'è uno studio del Ministero dell'Economia, uno studio che è durato 3 anni, per vedere quali sono i costi standard, diciamo, dei fabbisogno, il fabbisogno dei costi del comune medio, e si è andata a vedere quali sono i comuni che spendono molto di più rispetto a quello che è un fabbisogno standard, e i comuni che invece sono più virtuosi perché spendono meno, sono sotto quella cifra. Vi daremo un po' di nomi di comuni, amministrazioni, e magari scopriremo anche qualche bella novità che ci farà riflettere. Di questo parliamo alle 8:15. Ora i giornali. È mercoledì 30 ottobre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, l'apertura è sulla legge di stabilità, casa e cuneo, cambia la manovra, questo è il titolo di prima pagina. Poi il Corriere della Sera invece si concentra su questo tema economico che sta dividendo il governo, divisi sui limiti ai contanti, Saccomanni, il ministro, dice ridurre l'uso delle banconote, mentre il PDL dice al contrario, uso di contanti e possibilità di scaricare gli scontrini. Il Giornale invece, sondaggio clamoroso, crisi, in Italia i no euro diventano maggioranza, 3 italiani su 4 insoddisfatti della moneta unica e dell'Europa targata Merkel. Poi c'è la politica, Repubblica, decadenza, al PDL scatena il caos, il Fatto Quotidiano, altro che voto segreto su Berlusconi, l'obiettivo è non votare mai, la Stampa, decadenza di Berlusconi, caos in giunta, il voto slitta. Il Messaggero invece ha un'intervista a Renzi, azzerare le leggi sul lavoro, questo è il titolo di prima pagina, mentre Libero, in che mani siamo, 3 ministri da buttare, sono, secondo Libero, Saccomanni, Zanonato e Del Rio. Per l'Unità la decadenza infinita, questo è il titolo di prima pagina. Comunque parleremo anche di questo, della situazione sia politica che economica. Prima però voglio partire in questa rassegna stampa. Era inevitabile che il processo a Schettino, il processo per la tragedia della Concordia, finisse in un feuilleton quando ieri si è presentata la hostess moldava Domenica Cemortan. E così all'italiana, subito sui giornali, su che cosa è virato il processo, chi se ne frega per un giorno della tragedia, chi se ne frega dei morti, chi se ne frega della responsabilità, dell'accertamento dell'eventuale responsabilità di chi, soprattutto del comandante Schettino. Eccolo qui, prende il titolo dei giornali, tutti i titoli dei giornali dedicati alla relazione sentimentale di Domenica Cemortan e il comandante Schettino. Chi se ne frega, verrebbe da urlare davvero al microfono. Eppure, eccolo qui, la ballerina moldava, ero l'amante di Schettino, sulla Stampa. Le confidenze della bella Domenica, le amanti non pagano biglietto, sul Quotidiano Nazionale. Il Secolo, ero l'amante di Schettino, niente biglietto. Il Corriere, Domenica al giudice, sì è vero, Schettino era il mio amante. Libero, Domenica getta la maschera, ero l'amante di Schettino. Tutti dedicati articoli a questo. Evviva, tra l'altro Grazia Longo fa sapere sulla Stampa, pagina 17, nel resoconto della cronaca al processo, che Schettino si è lasciato andare ad uno sfogo anche poco, davvero poco da galantuomo, finito il processo, mentre addenta una pizzetta dice «Ma che l'hai saltato in testa quella là di avere una relazione? Doveva solo dire al massimo che abbiamo avuto un flirt!» Ma scrive Grazia Longo, quello che scriviamo è la traduzione soft della espressione assai più colorita del comandante. Chissà quale sarà l'espressione, un paio di idee mi vengono in mente. Comunque i giornali dedicano mezza pagina, ma chi anche una pagina, non al processo della Concordia, non all'accertamento di responsabilità, non all'udienza di ieri, ma ai fatti loro del comandante Schettino e Domenica Cemortan. Come detto, noi alle 8.15 parleremo invece di costi alla politica. L'ultimo caso è quello della regione Emilia-Romagna, con lo scandalo che oggi il quotidiano nazionale, io davanti con Gilberto Dondi, riapprofondisce, soprattutto perché riguarda una regione dove nell'edizione del Resto del Carlino è molto diffuso questo quotidiano. Cene di lusso, maxi rimborsi, ecco le carte di credito per gli extra. Questo è un po' non tanto il trucco, perché è tutto legale, ma la pratica che veniva utilizzata. Ogni consigliere regionale dell'Emilia Romagna, ma credo che capiti così a ogni consiglio regionale italiano, c'era una carta di credito a disposizione. Questo è il problema. Gilberto Dondi, il sistema Emilia Romagna, l'allegra gestione del denaro pubblico, ed ecco allora che ci sono 75.000 euro spesi per pranzi e cene in 19 mesi dai gruppi del PDL e del PD, per cui è stato chiesto il rimborso. Cene con 200 euro a persona di conto, per esempio. Ovviamente tutti adesso dicono dimostreremo che è tutto a posto. Sta di fatto che il quotidiano nazionale, con Paola Benedetta Manca, pagina 9, fa anche un giro nei circoli del Partito Democratico. Il titolo è: gli indignati della base, cacciate chi si è abbuffato. Questo è il viaggio nei circoli del Partito Democratico dopo l'ultimo scandalo. Insomma, si raccoglie la rabbia della gente che dice: di questi tempi la politica deve dare il buon esempio, vadano tutti a casa, è l'ennesima porcheria, una vera vergogna. Insomma, noi cercheremo, oltre che a dar fiato a questo sfogo della rabbia della gente, cercare di capire, come detto alle 8.15, anche quali sono le amministrazioni virtuose e quelle un po' meno virtuose, secondo uno studio durato 3 anni del Ministero dell'Economia, che ieri è anticipato dalla Stampa, per cercare di capire quali sono i fabbisogni di spese dei comuni e chi si attiene, fabbisogno medio, chi si attiene, chi va sopra e chi va sotto, chi invece sta sotto in maniera virtuosa. A proposito di costi della politica, ieri è esploso anche il caso della Liguria, dove ci sono 10 consiglieri indagati per peculato, cioè l'accusa è sempre: spese loro, soldi nostri. Il titolo di prima pagina del Secolo XIX è: Liguria, consiglio decapitato, spese pazze, lascia la presidenza l'UDC Monteleone, che dice: mi hanno pugnalato. Ha utilizzato un'espressione di craxiana memoria: in questa situazione che riguarda tutti pago solo io. 10 gli indagati per peculato, fa sapere in un resoconto. Poi a pagina 3 il Secolo XIX racconta tutta questa vicenda, che riguarda sempre anche qui libri, cene, notti in albergo, trasferte poco chiare, soggiorni con la famiglia, pasticcini comprati a Ferragosto. Tutto per dire che è il sistema che non funziona. Ogni anno, pensate, scrive il Secolo XIX, pagina 2, nell'articolo di Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni, i gruppi consigliari della regione Liguria costano l'equivalente del reddito di 138 cittadini liguri, se si prende il reddito medio dei cittadini liguri. Il gruppo dei consiglieri regionali, e quindi quanti sono? 30, 40 più o meno, costano come lo stipendio annuale di 138 cittadini liguri medi. Rimborsi in Liguria, scandalo e dimissioni anche per Erika Della Casa. Sul Corriere della Sera una pagina, pagina 23, lascia il presidente del consiglio dell'UDC Rosario Monteleone, non ha spiegato spese per 100.000 euro. Anche per La Stampa, Liguria, il politico UDC lascia accusa, anche se non è l'unico indagato, e soprattutto dice: mi hanno pugnalato vigliaccamente alle spalle, ma il tempo è signore, me ne vado con una sola amarezza: in questa situazione che è di tutti, hanno colpito solo me. Eccolo qui il riferimento di cui dicevo, di craxiana memoria, cioè alzi la mano, si alzi in piedi, no? Chi in quest'aula può prendere le distanze da questo sistema? È come dire, Questo è il dato di fatto. Lo approfondiremo alle 8:15. Ora andiamo in pubblicità e poi ripartiamo da che cosa? Dalla politica sempre litigiosa, il tema che è in primo piano, quello della decadenza di Silvio Berlusconi. Lo porteremo avanti chissà per quanti mesi. E poi novità anche poco piacevoli, per esempio sulla legge di stabilità, sia sulle accise sui carburanti, sia su soldi a pioggia, 400 milioni che vengono destinati nel decreto enti locali per il comune di Roma. 24 mattino. Eccoci qua, sono le 7:32 minuti, pronti a leggere il giornale. Allora, come dire, secondo me le notizie più importanti sono quelle sulle novità, la legge di stabilità, ci sono un decreto enti locali che dà 400 milioni di euro a Roma, al comune di Roma, ma con la possibilità di aumentare le tasse, cari cittadini di Roma, da parte del comune. Preparatevi, nel 2014 l'aumento dell'IRPEF è cosa certa, vedrete, non è che voglio menare sfiga, ma se si dà la possibilità a un comune di aumentare le tasse, secondo voi cosa faranno al Campidoglio? Cosa faranno? E poi che cosa? La possibilità che aumenti nuovamente la benzina. Anche qui non voglio menar gramo, ma la spiegheremo tra poco. Prima devo iniziare dallo strazio della politica, perché almeno dalle impaginazioni dei giornali 7-8 pagine dedicate che cosa al tema decadenza di Silvio Berlusconi. Si è discusso ieri litigando, oggi si ripartirà alle 9 come abbiamo sentito nel giornale radio, sempre litigando sul fatto che il voto debba essere palese oppure segreto, come vuole il regolamento e come è da tradizione fino ad oggi, ma qualcuno, il Movimento 5 Stelle soprattutto, chiede che il voto per Berlusconi sia palese. Per Berlusconi è, immagino, cambiare il regolamento e quindi che sia palese per sempre da questo momento. Comunque il tema è la litigiosità. Berlusconi avverte Letta, intervenga o sarà crisi. Questo è il titolo di pagina 13 del Sole 24 Ore. Insomma, le solite minacce che sentiamo da mesi. È decadenza, altro rinvio. Ora lo scontro è sulla data del voto. Così pagina 3 del Corriere della Sera, Virginia Piccolillo. Lo scrutinio segreto palese. Il nodo è aperto. Oppure pagina 2 e 3 del Corriere della Sera c'è che cosa? Il classico retroscena, la trattativa sul partito. Alfano va a cena a Palazzo Grazioli e dice a Berlusconi: far cadere tutto non serve a nulla. Raccontano di un colloquio drammatico, fa sapere il Corriere, un chiarimento definitivo troppe volte rimandato negli ultimi 28 giorni che hanno cambiato la storia del centrodestra, perché dal 2 ottobre il Cavaliere e il suo ex Delfino, cioè Alfano, si sono sempre trovati su posizioni diverse e forse inconciliabili. Ieri Alfano pare che abbia ribadito a Berlusconi che mette l'out, o non si vota la decadenza, oppure cade tutto, cade il governo. Alfano pare che abbia detto: caro Silvio Berlusconi, no, non ci sono i numeri. Anche Enrico Letta, fa sapere il Corriere della Sera, pagina 6, con Marco Galluzzo, anche qui. Il premier: netta separazione tra governo e caso giudiziario, un atteggiamento pilatesco e sconsiderato, così lo definisce Mara Carfagna, ex ministro, ex pupilla del Cavaliere, oggi parlamentare. Se Letta non interviene è come Pilato. E anche Berlusconi ha detto: basta una riga per cambiare la legge Severino, e scrivere non vale per il passato. Insomma, il governo Letta ha un'autostrada davanti se vuole intervenire. Se non vuole intervenire, anche qui in retroscena di Repubblica, l'ultimatum di Berlusconi: sono pronto a scatenare l'inferno. Carmelo Lopapa, pagina 3, il mio vero nemico, avrebbe detto Berlusconi, è Napolitano. E questo è nel titolo, parla di accanimento giudiziario incomprensibile, immeritato. Cosa farete voi ministri? Starete con loro anche dopo che voteranno, magari con voto palese, la mia decadenza? Scatenerò l'inferno. Insomma, come vedete, politica ancorata e bloccata, almeno su questo tema, da giorni, con le solite parole, le solite dichiarazioni. Voi prendete il giornale di 10 giorni fa, di 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ieri, su questo tema, le dichiarazioni sono fotocopie, sono sempre le stesse. Le uniche cose un po' nuove, se volete, su questo tema, dopo che anche Repubblica fa sapere che Alfano a Berlusconi ha detto, e l'articolo a pagina 6, rassegnati, non farò cadere Letta, perché questo tra l'altro porterà a una possibile vittoria a febbraio di Renzi se si andasse alle elezioni, e Renzi vincerebbe facile. L'unica novità, appunto, è forse l'articolo di pagina 5 del Fatto Quotidiano, firma Fabrizio D'Esposito, e che è titolato così: Angelino si è arreso con il metodo boffo. Secondo Fabrizio D'Esposito, secondo il Fatto Quotidiano, la notizia che Angelino Alfano in qualche modo abbia fatto un dietro fronte dopo aver minacciato scissioni, spaccatura all'interno del PDL, dicendo no, Silvio Berlusconi è sempre il mio leader, va a essere giustificato con che cosa? Con gli articoli apparsi sul giornale Libero qualche giorno fa. Poca roba, che però serve a mettere pressione e paura sul giovane vice premier. Già, ma di che cosa avrebbe paura Alfano? Scrive il Fatto Quotidiano: secondo la versione che circola tra i falchi del PDL, Ghedini, che è il vero autore del dietro fronte di Alfano, avrebbe fatto riferimento alla moglie di Angelino Alfano, che divenne nota quando il marito si inventò la riforma della mediazione civile. Lei si chiama Tiziana Miceli, fa l'avvocato civilista, è stata una delle primissime mediatrici dopo la svolta del consorte Guardasigilli. E quanto guadagna oggi? Mistero, scrive il Fatto. Sul sito dell'attuale vice premier e titolare del Ministero dell'Interno non c'è traccia della dichiarazione dei redditi di Miceli, consenso negato per la legge sulla privacy. Così si conoscono le cifre del marito, cioè di Angelino Alfano, 105.000 euro. Ma non quelle della moglie. All'interno del PDL girano cifre a 6 zeri, 10 se non 20 volte superiori a quelle del marito. 3 anni fa invece la moglie di Alfano denunciava circa 230.000 euro. Secondo altro capitolo sono i rapporti, scrive il Fatto, tra Alfano e il clan dei Ligresti. A Roma la famiglia del capo dei ministeriali vive nel condominio più lussuoso dei Parioli, di proprietà appunto dei Ligresti. Il prezzo dell'affitto è un dettaglio, nel senso che l'amicizia impone cifre inferiori a quelle di mercato. Secondo il Fatto Quotidiano sarebbe pronto addirittura un metodo boffo nei confronti di Alfano. Vabbè, volete l'altra notizia che trovo di straordinario interesse sulla vicenda Silvio Berlusconi? Che hanno scovato la mamma di Dudù, si chiama Trilli. Ecco, questo se lo volete oggi su Chi, forse la notizia politica più sconvolgente di ieri. Trilli, la mamma di Dudù. Si assomigliano, c'è la foto, sai, tra cani diciamo che è più facile che tra uomini, si vede proprio la somiglianza. Mamma, figlia, figlio, figlio, immagino che Dudù sia un maschiettino. Allora, per quel che riguarda invece il Partito Democratico, Renzi fa un'intervista, una lunga intervista al Messaggero, nella quale dice alcune cose interessanti, soprattutto nel mondo del lavoro. Il titolo di prima pagina è: azzerare le leggi sul lavoro, vanno cambiate, semplificate, azzerate le norme che regolano il mondo del lavoro e il sistema previdenziale. Così Matteo Renzi al Messaggero dice: non cancellerei lo statuto dei lavoratori, è stato nel 70 una risposta a un mondo in cui vigeva un far west normativo in questa materia, ma nella logica della difesa dei diritti dei lavoratori quel codice certamente è intoccabile, ma si possono modificare le regole non solo dentro lo statuto ma anche nei 2000 articoli della legislazione in materia. E poi dice, aggiungendo Matteo Renzi, il PD non deve essere la cinghia di trasmissione della CGIL. Poi ovviamente parla di tante altre cose. A pagina 2-3 è stato un video forum al Messaggero con una lunga intervista cartacea oggi sui giornali. Per quel che riguarda invece sempre la politica e il Partito Democratico, la lite D'Alema-Renzi, la lite su Virnalisi. Il Corriere dedica una pagina, pagina 8, D'Alema-Renzi, nuova lite su Virnalisi. Noi abbiamo fatto sentire anche a pagina 6, alle 6.30, lo spot del carosello di Clorodont di Virnalisi, quando D'Alema ha detto, mi ricorda Virnalisi, con quella bocca può dire ciò che vuole Matteo Renzi, insomma l'accusa di parlare un po' a vanvera. Vabbè, forse un po' più interessante il tema delle presunte finte iscrizioni all'interno del Partito Democratico in vista delle elezioni del segretario. Il caso di Asti soprattutto si concentra su questo, il Corriere della Sera, pagina 8, il PD e lo strano caso di Asti, albanesi 2 neo iscritti su 3. Domenica sono state firmate 341 tessere in poche ore ad Asti di iscrizione al PD, e per carità succede sempre quando un aumento di iscrizioni quando si va verso l'elezione al segretario del partito. Ma lo strano caso, racconta Marco Cremonesi, che di queste 341 tessere, i 2 su 3 sono albanesi. E, insomma, folgorati sulla scia del Partito Democratico. Va bene, voglio salutare Mauro Meazza. Buongiorno, caro Mauro, come va? Buongiorno, buongiorno Alessandro. Tutto a posto, ti sei iscritto al Partito Democratico in fretta? No, ti... no, no, però pensavo, vabbè, ci sono squadre indonesiane, ci sono... giusto, elettori, no? Elettori albanesi del PD, magari ti hanno iscritto a tua insaputa, peraltro, tu non lo sai. Mi, no. Come dire, mi darebbe fastidio, cioè preferirei essere informato prima. Ho sentito che hai una traccia abbastanza familiare, mogli, papà, mamme di politici famosi, insomma. Sì, sì, sì, sì, sì, abbiamo, esatto, preso una deriva un po' familiare. Esatto. Senti, allora ti voglio dire, guarda, oggi sul Sole 24 Ore presentiamo la giornata del risparmio, sai che oggi è la giornata del risparmio, ieri sono usciti questi dati riferiti a un sondaggio sul fatto che risparmiamo sempre meno, e risparmiamo sempre meno nel mattone. C'è una timida ripresa di risparmio, ma parliamo di quote dal 28 al 29%, e una certa sfiducia da parte degli italiani, e devo dire che sentendo anche la tua rassegna stampa, forse tanti motivi di fiducia, almeno dall'alto non è che non ce li danno. Anche se, Mauro, e voi oggi ci tornate, il ministro Saccomanni ha detto proprio sulla casa, oltre che sul cuneo fiscale, ma anche sulla casa, si è pronti a fare delle modifiche nella legge di stabilità, visto che ieri denunciavate c'è il rischio di un aumento delle tasse sul mattone, no? Sì, sì, sì, riferiamo in... diverse pagine, le modifiche che si preparano per la legge di stabilità, la cosa più importante è quella che dicevi tu. In pratica, scusate se ci diamo un po' delle arie, ma di fatto hanno accolto le segnalazioni che erano state fatte nelle settimane scorse sul Sole 24 Ore, cioè attenzione, senza le detrazioni il passaggio dall'IMU a questa bestia stramba che sarà la TRISE o il TRISE rischia di diventare più un aggravio di imposta, e quindi Saccomanni ha aperto. Invece vedo che c'è questa polemica molto carina sul contante sì, contante no. Eh sì. Se ne riferiamo anche noi, io vorrei ricordare che tra l'altro domani scade il termine per cui le banche devono inoltrare i dati sui nostri conti. Cioè, no, ma è chiaro, ma è l'ennesimo litigio all'interno del governo. Il ministro Saccomanni, spieghiamo, ha detto ci vorrebbe più pagamento elettronico, cioè limitiamo l'uso del contante perché così si limita l'evasione fiscale. Invece Alfano ha detto noi la pensiamo proprio l'opposto, aumentiamo l'uso del contante, però diamo la possibilità di tenere tutti gli scontrini e scaricare le spese. Ecco, se queste sono le premesse delle larghe intese, non lo so. Sono larghe intese, diciamo, su cui bisognerà chiarirsi, ma vedo che peraltro la politica, come si riferivi anche tu prima, sembra occupata di più da altre vicende, comprensibilmente la vicenda della decadenza di Berlusconi, per carità, quella sicuramente ci dà il tormento. Volevo anche dirti oggi, con il Sole 24 Ore, i lettori trovano un inserto di 16 pagine, correggere gli errori fiscali, ecco. Vorrei dare questo messaggio, non spiego tecnicamente l'inserto, si può sbagliare col fisco, non è detto che sempre debba essere una sciagura, uno si può anche correggere e non è necessario il pentimento, inginocchiarsi sui ceci, insomma. O temere le lettere di Equitalia, dire oh no, è arrivata la lettera di Equitalia, mi devono… Si può anche correggere, addirittura hanno detto le entrate, addirittura a nostro favore, cioè ci siamo resi conto, non abbiamo riferito una spesa che avevamo diritto, appunto per stare sul discorso di Alfano, e possiamo anche integrare, insomma, quindi… 16 pagine per spiegarlo ai contribuenti, in particolare ai professionisti. No, ma è chiaro, un vademecum per capire come comportarsi in questa relazione con questo soggetto così da temere, rispettare, con cui relazionarsi, il fisco, Equità, va bene. Mauro, io ti ringrazio, noi dopo il traffico parleremo sempre, mi concentrerò su questa vicenda che racconta Marzio Bartoloni sul Secolo XIX, cioè 400 milioni dal governo al comune di Roma. Spiegheremo i dettagli tra poco. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. E allora svegliamo il mistero di questi 400 milioni a Roma, così racconta Marzio Bartoloni, pagina 5 del Sole 24 Ore. Il governo salva Roma dalla bancarotta garantendo una boccata d'ossigeno che vale, tra varie poste in gioco, circa 400 milioni di euro. Sapete che il comune di Roma ha un debito, un buco stimato in 867 milioni di euro per il 2013. Dunque quasi metà arrivano di salvataggio dal governo, decreto enti locali, ma c'è un'altra possibilità. Non solo da 400 milioni a Roma, ma si apre anche a una mini stangata dell'IRPEF, perché dal 1 gennaio 2014 si dà la possibilità al Campidoglio, quindi al comune di Roma, di innalzare l'addizionale dall'attuale 0,9 fino all'1,2% per i cittadini di Roma. Un salto record che dovrebbe assicurare un paracadute per l'anno prossimo, quando il comune dovrà trovare circa 1 miliardo di euro. Ora, io non voglio menar gramo e portare sfiga, come dire, ma secondo voi, se il comune di Roma, cari cittadini di Roma, potrà aumentare le tasse da 0,9 a 1,2% dal 1 gennaio 2014, lo farà oppure non lo farà? Secondo voi? Ecco, datemi la risposta nel giro di 0,3 secondo e la risposta è: lo farà. Su questo anche Sergio Rizzo, a pagina 13 del Corriere della Sera. Debito record a Roma, la super tassa in arrivo, l'addizionale IRPEF fino all'1,2%. Ah, ecco, c'è la risposta del sindaco Marino: resisterò finché posso per evitare il rincaro. Non so, fino al 2, 3, 5 gennaio, 6 febbraio. Ma temo, non è una questione di colpa. Lo stesso Corriere scrive: il sindaco Ignazio Marino, sia chiaro, non ha colpa, appena arrivato, e dire che ha ereditato una situazione complicata è un eufemismo. Ieri ha promesso di resistere ad alzare l'addizionale fino ai livelli massimi, come gli ha concesso ieri il Consiglio dei Ministri, affermando che a Roma si pagano già troppe tasse, ma non poteva fare un'affermazione diversa. Temiamo che presto si renderà conto dell'ineluttabilità del giro di vite, evitarlo richiederebbe interventi che per nessun sindaco, soprattutto di centrosinistra, sarebbero politicamente sostenibili. Certo, Sergio Rizzo si concentra a dire: fronteggiare questa situazione, aumentare le tasse comporterebbe dei servizi di livello altissimo, invece il trasporto pubblico non è degno della capitale di un paese sviluppato, figuriamoci di una delle città più importanti del turismo mondiale. Il traffico è infernale, una struttura viaria inadatta, la grande circolazione di mezzi privati sopporta, a causa della carenza di qui sopra, un numero di auto superiore in rapporto agli abitanti a quello di qualunque altra metropoli del pianeta. Aggiungiamoci la mancanza di parcheggi, il quadro è completo. Insomma, aumenterà con l'addizionale IRPEF le tasse, ma il dato di fatto è che i servizi rimarranno, si teme, non all'altezza delle tasse pagate. L'altra novità invece in arrivo è la possibile nuovo aumento delle accise della benzina. L'ho letta sul Messaggero, strabuzzavo gli occhi, cari italiani. Invece così il Messaggero, pagina 11, Andrea Bassi: sanatoria giochi, rischio caro benzina. La vicenda è un po' complicata, ma è spiegata molto bene in questo articolo. Così è stata fatta una sanatoria sulla maxi multa da 2,5 miliardi che la Corte dei Conti ha dato sui concessionari del gioco d'azzardo legale. Ha detto: cari concessionari, aderite a questa sanatoria e vi sconteremo 2,5 miliardi di multa. Sisal, per esempio, pagherà 49 milioni che deve, Cogetech ne verserà 51, GameNet ne metterà 47, SNAI chiuderà il contenzioso versando 42 milioni. Già. Ma dipende da quanti aderiranno a questa sanatoria da 2,5 miliardi, perché il governo deve fare un bilancio, alla fine deve ottenere dei soldi che sono messi a bilancio. E allora il rischio è questo: se pochi concessionari dei giochi aderiranno alla sanatoria sulla maxi multa da 2,5 miliardi, allora bisognerà trovare i soldi in un altro modo, e è previsto possibilmente un nuovo aumento delle accise e degli acconti fiscali come effetto collaterale della cancellazione della prima rata dell'IMU. Insomma, Dei 10 concessionari multati, per il momento solo 6 sono intenzionati ad aderire al condono. Manca però il più grande, B+, e quindi c'è il rischio che per trovare soldi in altro modo si aumenti ancora l'accisa della benzina. Chissà, staremo a vedere. Che dire, siamo alle battute finali. Ricordo solo che per quel che riguarda la politica c'è un retroscena interessante sulla visita di Beppe Grillo al Senato. L'articolo è del Fatto Quotidiano a pagina 6, un articolo in esclusiva. Martina Castigliani dice: questo sono in realtà quello che Beppe Grillo, davanti a tutta la stampa, ha fatto anche molto lo show, ma davanti ai suoi parlamentari nel chiuso delle stanze ha detto delle cose diverse di cui il Fatto può raccontare i dettagli, tutti i dettagli a pagina 3, il titolo emblematico: Napolitano sotto accusa è solo una finzione politica. Cioè, attenzione, questa è una notizia importante, Beppe Grillo avrebbe detto questo ai suoi parlamentari: non dobbiamo vergognarci di essere populisti, l'impeachment di Napolitano, per esempio, è una finzione politica per far capire da che parte stiamo. Parla così ai suoi in un'aula della Camera, al chiuso e fuori e lontano dalla stampa. Il grande capo non alza mai la voce, gesticola, ride poco, dà pacche sulle spalle, dice: sono qui per sostenervi ai suoi, ma c'è praticamente tutto il resoconto della riunione. Voglio però chiudere con l'articolo più inutile scovato sui giornali: la carta costa, oggi vince Repubblica con Vera Schiavazzi, pagina 21, un'intera pagina dedicata ai nostri amici animali e cani, per raccontare che negli ultimi 10 anni, aiuto, mi si è ristretto il caner, perché vince il pincher scacciò l'alano, ecco perché nelle nostre case il cane è diventato tascabile. Negli ultimi 10 anni la taglia media del cane preferito dagli italiani cala di un quarto. È più facile da gestire, ma insomma, ma va bene, li amiamo, ma scriverne una pagina su Repubblica, chi se ne fotte? La carta costa e andiamo al giornale radio. 24 mattino. Eccoci qua, sono le 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, intanto diamo un dato che oggi fornisce Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni sul secolo XIX. I gruppi consigliari della regione Liguria costano ogni anno come lo stipendio medio di 138 liguri, cittadini liguri, se consideriamo appunto il reddito medio dei cittadini liguri. Insomma, il costo dei gruppi consigliari di 40 persone costano come lo stipendio di 138 cittadini liguri, e costi vuol dire le spese consigliari per fare che cosa? Beh, mantenere il gruppo, le cene e quant'altro. Solo che se ne parla in Liguria perché ieri si è dimesso il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Monteleone, dell'UDC. Secondo il quotidiano, appunto, non riesce a spiegare spese per 100.000 euro. Lui è indignato e anche con un'evocazione di craxiana memoria ha detto: sono amareggiato perché per una situazione che riguarda tutti pago solo io. Sta di fatto che la Liguria è una delle tante regioni, praticamente tutte le regioni, dove le spese dei consiglieri sono finite nell'occhio della procura. L'ultima che sta facendo scalpore è quella dell'Emilia Romagna, dove c'è anche il colore per 2 scontrini per l'utilizzo di 2 volte il bagno pubblico per un totale di 50 più 50 centesimi, dunque 1 euro è finito nell'occhio del ciclone, in questo caso il piddino Thomas Casadei, che dice sarà un errore, assolutamente no, però insomma il tema è sempre quello. Com'è possibile che la politica finanzi in questo modo spese, che si parla di cene da 200 euro, ostriche, caviale, tartufi, solite cose. Ne vogliamo parlare con il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna, Andrea De Franceschi. Buongiorno, capogruppo tra l'altro, se non sbaglio. Buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno. Saluto anche per Francesco De Robertis, che è stato con noi già altre volte, è responsabile della redazione romana del quotidiano nazionale. De Robertis, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, tra l'altro, voi o soprattutto nell'edizione del Resto del Carlino, ma io anche quella che leggo il Giorno a Milano, insomma, su questa cosa dell'Emilia Romagna l'avete scovato voi, ieri l'ho visto intervistato. Devo dire che Thomas Casadei, da quando è stato intervistato da voi, come dire, non risponde più al cellulare, mettiamola così, De Robertis, cioè, che è quello degli scontrini al bagno pubblico. ma è davvero un errore o come... Ma poi detto li restituisco, due scontrini da 50 centesimi. Sì, restituisco un euro. Vado in piazza a Bologna e restituisco alla comunità un euro. Ma al di là del colore, il tema è molto, molto serio, cioè il finanziamento dei costi, il finanziamento della politica. Intanto De Franceschi, lei è indagato come tutti i capigruppo, anche lei oppure no? Ma no, questo è un fatto già smentito dalla procura. La procura sta ovviamente indagando, è normale, ha sequestrato tutti quanti la documentazione di tutti i gruppi, per cui la sta mettendo al vaglio. E notizie di ieri, tutti i capigruppo giustamente saranno convocati per spiegare eventuali cose che non vanno. Quindi non ci sono spese che per le quali voi temete? No, io non temo nulla, non per il semplice fatto che sono certo di essere una persona più che onesta, e questo sarebbe il minimo, ma per il semplice fatto che noi dal 2010 abbiamo pubblicato online tutti i nostri conti, riga per riga, fattura per fattura. I cittadini prima che ancora la procura hanno potuto vedere i nostri conti, criticarli, chiederci spiegazioni, per cui c'è questa serenità che nasce dalla trasparenza. Noi sono 3 anni che chiediamo che tutti i conti dei gruppi consigliari vengano messi online nel dettaglio maggiore possibile, e questo avrebbe impedito tutto ciò. È anche una forma di autocontrollo, no? Se io so che la mia ricevuta del ristorante sarà messa online, è ovvio che probabilmente non mangio, come dice lei, se è successo davvero, caviale e champagne. Ma il timore è che in realtà nelle pieghe del regolamento poi possa diventare tutto regolare, nel senso, per esempio, è vero che ogni consigliere regionale ha a disposizione una carta di credito per la quale, anche per una questione di comodità, come dire, uno striscia e poi ovviamente porta il giustificativo. Ma di questo non ci sarebbe nulla di strano se si presentassero i giustificativi, nel senso che è ovvio che le spese del gruppo possono essere sostenute tramite bonifico, contanti o carta di credito, non è quello il punto. Il problema è che indipendentemente dal mezzo di pagamento che si usa, le spese vanno rendicontate, cioè va portata la fattura come viene nelle aziende normali, private, e deve avere una giustificazione questa fattura. Se non ci sono queste fatture, per cui c'è un uso di carte di credito, come dire, a forfè, a plafond, questo è assolutamente irregolare e stupisce che i revisori dei conti possono approvare dei bilanci del genere. Io devo dire che, tra l'altro, De Robertis, voglio ricordare, ha scritto un libro che è già avuto molto successo, La casta invisibile delle regioni. So che ne stai preparando un altro, no? Che uscirà a breve. Ma no, già pronto, uscirà tra una quindicina, 20 giorni. Ah, vabbè. Credo, la casta a statuto speciale. Cioè, ti bisogna statuto speciale. Allora, la questione è che per molti la soluzione è molto chiara, è semplice. Bisognerebbe eliminare, mettere a zero le spese dei gruppi consigliari. Detto che già, voglio dire, le regioni, già i consiglieri hanno l'autostipendio, perché anche queste spese dei gruppi consigliari, che si sono, ahi noi, trasformate spesso in cene, bene, dovrebbero essere cene elettorali, in realtà rischiano di trasformarsi in abbuffate pantagrueliche? Ma qua bisogna fare un minimo di chiarezza, nel senso che ricordare che il governo Monti, in seguito allo scandalo Fiorito nel novembre dello scorso anno, ha fatto un decreto che vale per tutte le regioni a statuto ordinario, perché quelle a statuto speciale fanno un po' come vogliono, che ha ridotto drasticamente tutta una serie di spese, ha tolto quasi tutto, insomma. Quindi quando si parla di casta, di spese pazze nelle regioni, bisogna distinguere prima del decreto Monti e dopo il decreto Monti, tant'è che tutte queste inchieste che ci sono in giro per le regioni si riferiscono a fatti prima di questo decreto. Una volta passato il decreto, che è stato poi convertito in legge, tutte le regioni l'hanno recepito e ormai la situazione è, come dire, diciamo, bonificata a grandi linee. E il problema era prima, quando, non essendoci nessuna regolamentazione, ognuno faceva come voleva, c'era questo senso di impunità diffuso che non discolpa assolutamente quelli che sono incappati in queste cose, perché, voglio dire, comprare un iPad può anche essere una spesa per la politica, comprare un libro, ma andare a fare queste cene, comprare le motoseghe o le cartucce da caccia o i reggiseni, come apparso, era evidente una violazione. Però è molto interessante, Pierfrancesco, quello che ha detto il presidente del consiglio o ex presidente del consiglio regionale della Liguria, Monteleone. Ecco, quando io dico con uno spirito di craxiana memoria, è in una situazione, in questa situazione che è di tutti, hanno colpito solo me. Allora poniamoci nell'ottica di un cittadino che legge questa dichiarazione, cioè sta dicendo, andando un po' oltre, che quella situazione ha colpito lui, ma tutti sono uguali. Ma guarda, lì nel caso della Liguria credo ci sia, almeno per quanto a guardare le accuse, poi dopo tutto dovrà essere verificato, ci sono degli aspetti anche un po' diversi, perché lì si parla proprio di soldi spariti e molti soldi, non è una cena o una motosega, lì si parla di qualche decina di migliaia di euro che secondo l'accusa sono stati proprio presi dal conto e messi chissà dove, quindi tant'è che si parla di peculato, l'aspetto è un po' diverso. È chiaro che in questi casi il politico che è pizzicato tende ad alzare il polverone, a dire così, così fanno tutti o così facevano tutti. Ecco, nel caso delle altre regioni è vero che così facevano. Però è un'accusa molto grave, cioè al di là. Sì, è un modo per discolparsi. Per dire c'era un andazzo generale, io facevo esatto. Come gli altri. Cioè, non tanto per discolparsi, ma per dire tutti gli altri sono come. Guardate, sì, che state mandando via me, ma tutti gli altri sono come me. Per dire io non facevo niente di più di quello che facevano gli altri, come il bambino che viene preso a copiare il compito e dice ma lo copiano anche gli altri. Sì, ma punta l'indice su un sistema, come dire, tutto il sistema è così. Tra l'altro Andrea De Franceschi, voi del Movimento 5 Stelle invece combattete proprio questa cosa, cioè a dire si può fare una politica in modo diverso anche dal punto di vista dei costi, della politica, della trasparenza sui costi. Allora le chiedo, non è il caso di portare davvero a zero questi rimborsi per i gruppi consigliari, oppure servono? Mi spieghi a che cosa servono i rimborsi? Servono per i motivi che ha detto bene anche il giornalista da Roma, del Carlino. Ci sono delle spese che sono necessarie, come l'iPad piuttosto che un computer, e soprattutto non dimentichiamoci che in questi budget c'è l'intero pagamento dei dipendenti. È impossibile lavorare senza avere, non dico solo un addetto stampa, ma anche dei tecnici che si occupino di urbanistica piuttosto che e questo ambiente. Senza dubbio. Io senza seguo dubbio. Sette commissioni con 14 argomenti diversi, non sono un tuttologo, sarebbe impossibile. Detto questo, ci sono delle spese esagerate, nel senso che ci sono dei fondi dei gruppi consiliari. Lei pensi che noi quest'anno io restituirò 180.000 euro più o meno, credo, di budget non speso, perché mi è impossibile spendere delle cifre del genere, perché questo è interessante, cioè cosa vuol dire, nel senso lei ha dei fondi, quanto è che il gruppo consigliare del quasi Movimento 5 Stelle? 278.000 euro, vado un po' a memoria, cioè 278.000 euro circa è quello che è l'appannaggio annuale, voi ne restituirete restituirò credo sui 170-180, adesso ovviamente non siamo ancora a fine anno, non riesco a dirlo di preciso, ma cioè che lei dice non cioè, sono di troppo, nel senso sono assolutamente di troppo. Dopodiché anche all'interno di queste spese c'è una mentalità diffusa, che è quella del presidente della Liguria, però per cui così fanno tutti. C'è questa mentalità diffusa che tanto si possono spendere in cene, si possono spendere in convegni che a volte addirittura non esistono, si possono portare due ricevute diverse nella stessa cena, perché loro si sono adattati in una mentalità per cui non sono più soldi pubblici, non sanno neanche bene da dove vengono, e anche se cerchi di spiegargli, guardi, io per 3 anni mi sono anche confrontato con dei colleghi anche pacificamente cercando di capire la loro mentalità, non se ne rendono conto che sono soldi dei. Ma perché De Franceschi, è quello che io dico spesso, essendo soldi pubblici non sono di nessuno, essendo di tutti non sono miei, e quindi essendo di tutti chi se ne frega, cioè questo purtroppo tristemente è gran parte della mentalità italiana. Però il dato io però nasco da una cultura anche familiare per cui lo Stato siamo noi, i cittadini siamo noi. Ma certo, è chiaro che io lo dico in maniera amara, come certo, considerazione, però il punto da cui voglio ripartire tra un attimo è questo. Dopo la pubblicità, lei dice insomma 100.000, mi pare di capire, sono i soldi che potrebbero bastare per far funzionare il nostro gruppo, 100.000 da quanto così a spanne, 170.000 li restituirò e quindi sono perfino di troppo. E questo per dire come il sistema ha prodotto lo spreco. Poi quando uno li ha a disposizione dice: ma sapete che c'è, se devo pagare una cena a questo punto li utilizzo. Comunque tra poco ci raggiungerà anche un altro ospite, che è Luca Antonini, che insegna diritto costituzionale ma è presidente di una commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. C'è uno studio del Ministero dell'Economia molto interessante, che ha studiato i fabbisogni standard delle spese di comuni e province, e poi è andato a vedere, in base a questo fabbisogno standard, chi si discosta, cioè i comuni che spendono molto di più, quelli invece virtuosi che spendono molto di meno, e ne scopriremo delle belle tra pochissimo. 24 eccoci, eccoci qui, sono le 8:36 minuti. Allora, insieme a Pier Francesco De Robertis del Quotidiano Nazionale e insieme ad Andrea De Franceschi, che è il capogruppo del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna per il Movimento 5 Stelle, insomma, stiamo parlando di costi delle regioni. Io voglio salutare anche il professor Luca Antonini. Buongiorno professor Antonini. Buongiorno. Lei insegna diritto costituzionale ma è anche presidente della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, tra l'altro sì. Ha scritto anche un libro, Federalismo all'italiana, nel quale si parlano di questi temi. Mi ha molto colpito la ricerca, o meglio lo studio, che è durato credo 3 anni, ieri anticipato dalla stampa, uno studio nel quale voi siete andati a scovare i cosiddetti fabbisogno standard, la parola magica, cioè individuare per ciascuna funzione amministrativa il giusto livello di spesa, e poi siete andati a compararlo, cosa fanno i comuni e le province rispetto a quel fabbisogno standard, chi lo rispetta, chi non lo rispetta, chi spende di più, chi spende di meno. Se ne sono scoperte delle belle, professor Antonini? Sì, beh, perché il criterio precedente che veniva utilizzato nell'ordinamento italiano era quello della spesa storica, cioè tu vieni finanziato in base allo storico delle tue spese. Certo. Però non c'era nessuna verifica su qual era l'effettivo fabbisogno. Allora, il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro molto lungo, molto accurato, per cercare di capire qual è il fabbisogno appunto standard, diciamo giustificato, di ogni comune e di ogni provincia. È stato un lavoro che è durato, come diceva lei, 3 anni, perché sono stati inviati dei questionari ai comuni per raccogliere tutta una serie di informazioni che erano necessarie per capire qual era la spesa giustificata. Per esempio sull'amministrazione generale il questionario che è stato mandato conteneva 400 domande. Poi sono stati confrontati questi dati con i certificati di conto consuntivo, con alcuni altri dati che si avevano a disposizione, e si è arrivati a standardizzare la spesa, e questo ha portato dei risultati appunto che dimostrano l'irrazionalità del criterio della spesa storica. Cioè, per esempio sulla polizia locale emergeva che c'è un divario di spesa che può andare dai 7 euro pro capito a oltre 200 euro pro capito. Allora, il problema è quando questa spesa è giustificata. Se tu hai un campo nomadi nel tuo territorio, probabilmente può essere giustificata questa spesa, se tante zone ZTL, se hai delle scuole, ma in altri casi no. E allora questo lavoro è stato utilissimo per fornire dei dati oggettivi sulla spesa. Per esempio, sulle funzioni generali, il fabbisogno standard stabilito di spese di alcuni comuni, e poi io vedo che il comune di Napoli, se non sbaglio, si discosta in positivo, quindi spende molto di più il fabbisogno standard del 34,3%, cioè quello è il classico caso di una spesa non giustificata rispetto al fabbisogno standard, o sbaglio? Sì, è così. In quel caso si mette in evidenza che il finanziamento storico è stato superiore a quello standard. Alle reali necessità. Si tratta di capire come far rientrare rispetto a questa esubero di spesa. Evidentemente ci vorrà una gradualità, però perlomeno si fornisce un dato. Pensi la nuova imposta, la Tari per esempio, che il comune può aumentare. Ecco, e deve indicare, prevede la normativa, il costo del servizio e quale servizio si finanzia. Se noi avessimo a disposizione questo dato e venisse reso pubblico, i cittadini potrebbero capire se l'aumento è giustificato oppure no. Mi faccia capire, professore Antonini, quali sono i 3 o 4 casi, se li ricorda così, più virtuosi, e invece i 3 o 4 casi più clamorosi di discostamento in negativo, o meglio in positivo, e quindi diciamo negativo per tutti i cittadini, di spesa storica dal fabbisogno standard? Ma così adesso, tenendo conto che noi abbiamo standardizzato i dati che abbiamo per adesso disponibili, entro fine anno probabilmente riusciremo ad avere standardizzate tutte le funzioni fondamentali, sì, dei comuni, quindi l'80% delle funzioni. Adesso ne abbiamo due, che sono polizia locale e amministrazione generale, che vanno dal servizio tributi all'anagrafe. Ecco, rispetto a queste due, che costituiscono circa il 35% della spesa del comune, sicuramente c'era molto forte il dato di Napoli, lo scostamento, così come quello del comune di Ascoli. Virtuosi risultava Torino, per esempio. Torino risultava molto virtuoso su questo. Vedo una questo classifica anche Bari, addirittura meno 66,9%, cioè un discostamento, quindi una spesa molto inferiore rispetto al fabbisogno standard. Ma lì cosa vuol dire che uno è in grado di risparmiare o è in grado di spendere bene? Quel segno meno molto, molto pronunciato, che cosa, come lo dobbiamo leggere? No, in quel senso Bari è positivo, cioè in grado, sì, certo, vuol dire che sta spendendo bene, vuol dire che c'è una gestione che ha ottimizzato, diciamo, la spesa, vuol dire che ha organizzato i servizi senza personale in eccesso, per esempio, che ha razionalizzato il sistema della polizia locale, che ha fatto delle sinergie nell'organizzazione, per esempio, dei servizi del comune, ha fatto economie di scala, ricorso magari poco alle partecipate, cioè può essere questa una serie di motivazioni. Nei dati poi andrà calcolato, e lo stiamo calcolando, anche la capacità fiscale standard, perché un comune potrebbe spendere di più, però pagarselo, per esempio. Sì. E questo potrebbe essere un patto con gli elettori, no? Alcuni comuni, non so, dell'Emilia Romagna danno più servizi ai cittadini e hanno aliquote più alte. Allora, in questo caso il fabbisogno standard va depurato considerando la capacità fiscale e anche la capacità di dare servizi. Visto che lei parla di Emilia Romagna, noi stiamo proprio parlando però a livello di regione, di sprechi. Sentiamo anche due ascoltatori. Alberto da Milano. Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Che dice? La riflessione è questa: tutti questi ragionamenti utilissimi sulle regioni, sui contributi ai partiti non rendicontati, devono far pensare, far ricordare comunque che siamo l'unico paese, quasi in Europa, che ha una legge molto generosa per finanziare i partiti, ma non ha una regolamentazione sui partiti. Questa cosa, sì, è lì sul tavolo da 60 anni, certo, e certo, non se ne parla. Ecco, questa è la cosa, secondo me, alla base. Beh, un questo po' di tutte, è interessante anche come discorso, caro Alberto, anche se qui, insomma, il finanziamento ai gruppi consigliari regionali poi è una cosa anche diversa, però lei introduce un tema di cui si parla, come giustamente dice lei, da 60 anni. Vorrei rimanere in Lombardia. Claudio dalla provincia di Bergamo. Claudio, buongiorno. Buongiorno Mila, a me lei mi fa intervenire spesso, si vede che dico delle cose interessanti. Beh, perché lei chiama spesso, evidentemente. No, volevo dire questo: io sono un agente di commercio, no? Cioè io ho una pura provvigione, non ho nessun fisso, no? In base alle vendite che faccio, no? Sì. Adesso, l'azienda mi fornisce un programma da caricare per fare gli ordini ai clienti, però l'iPad ho dovuto comprarmelo io, me lo sono fatturato io, me lo scarico. L'iPad? Sì, esatto. Cioè, dice, perché se lo comprano loro? Allora di finirla, cioè io se ti do, io non li prendo i soldi che prende un consigliere regionale, anche, sì, se comunque sta bene, non si lamenta, per amor del cielo, però voglio dire, se mi danno 3.000 euro al mese lordi e ci pago sopra le tasse eccetera, se lo ci devo star dentro. Ma è interessante, sì. De Franceschi, lei ha detto l'iPad, alcune spese servono, perché uno non se le compra con il proprio stipendio, che ci vuole ricordare quant'è da consigliere regionale dell'Emilia Romagna? Guardi, io trattengo 2.700 euro, nel senso che ci siamo... Ah, vi siete dati questo limite, certo. Volontariamente noi, ma lì si tratta di beni che sono di proprietà della regione Emilia-Romagna. Adesso io capisco la posizione dell'agente di commercio, ma nel mio precedente lavoro ho lavorato per 14 anni per delle multinazionali nel settore degli alimenti per animali, e i dipendenti di qualunque azienda vengono forniti degli strumenti necessari. Ah, quindi per lei dice lavoro. Quando lei finirà il lavoro da consigliere regionale lo metterà a disposizione, lo ridarà, insomma, alla... no, è della regione. Ma è ovvio che qualunque azienda mette a disposizione gli strumenti per il lavoro, l'inquadramento di agente di commercio, sì, è un inquadramento diverso. E perché però abbiamo letto, diverso, non nel caso del Movimento 5 Stelle, o sbaglio, De Robertis, abbiamo letto di casi di gente che si è comprata l'iPad, no? Come altre amenità del genere, insomma, se è a disposizione. Forse l'hai tenuto? Non lo so. Ma l'iPad, guarda, l'iPad è una delle cose veramente meno, che forse può fare così più effetto, però sinceramente la trovo meno scandalosa. Il problema sono altre spese. Volevo dire una cosa a proposito, sì, se mi è concesso, di quello che dice il professor Antonini, sì, che è sicuramente la persona che si è impegnata di più e si sta impegnando di più. Però ecco, riflettiamo un attimo su questo dato: 3 anni per avere per un questionario, per avere dei dati, no? Ecco, qui c'è tutta la difficoltà del sistema, perché se servono 3 anni per avere dei dati su 2 voci, ecco, e poi non siamo nemmeno a niente, perché nel momento in cui sappiamo che Napoli spende più di Torino, il problema è poi come far spendere Napoli quanto, certo, Torino. Certo. Ecco, allora, beh, però intanto stabilire un fabbisogno standard è quello. Da quando inizia la procedura, quando arriveremo? Passeranno 10 anni. Questo è interessante. Le finanze pubbliche vanno a carte 48, quindi qui è veramente un problema serio, perché ci sono tutta una serie di incrostazioni a livello locale, per cui le amministrazioni locali non rispondono, spesso semplicemente non rispondono, perché non c'è un potere coercitivo vero. Ma sì, e forse poi, perché è comodo non far sapere, però hai messo il punto su un elemento molto interessante. Il professor Antonini, dopo le informazioni sul traffico, ti risponderà, e cioè a capire come mai ci sono voluti 3 anni per raccogliere dati, cioè siamo nell'era della trasparenza, dove tutto dovrebbe essere a disposizione con un click, e poi che succederà una volta che questi dati voi, professor Antonini, li avete e li state elaborando. Eccoci qua. Allora, professor Antonini, come le ha chiesto Pierfrancesco De Robertis del Quotidiano Nazionale, insomma, 3 anni per raccogliere questi dati è un lasso di tempo molto lungo. E poi che succederà una volta che sappiamo che Napoli spende di più di Torino? Napoli non è virtuosa e Torino sì. Ecco, teniamo conto che alle spalle avevamo 40 anni di finanziamento alla spesa storica, una serie di tentativi di superare questo criterio che sono miseramente falliti, cioè una storia di fallimenti, non si è arrivati mai alla quantificazione. Questa volta noi non è che mancano ancora delle funzioni, ormai i questionari sono stati restituiti tutti dai comuni, si tratta di 6.700 comuni in cui entro fine anno noi avremmo approvato tutte le funzioni fondamentali. E tutti sono stati collaborativi? Sono stati collaborativi, hanno detto. Ma guardi, qui c'è stata anche una forte collaborazione di ANCI e di IFEL su questa cosa, oltre al lavoro della SOSE. La SOSE è quella che ha fatto gli studi di settore per 3 milioni di italiani. Queste sono operazioni lunghe, perché devi farle in modo accurato, cioè devi capire appunto sulla polizia locale quali sono le condizioni, le variabili con cui quel comune si deve confrontare. Altre volte, quando in passato si è cercato di usare delle formule, le formule erano sempre più strette della realtà, cioè se io tengo aperta l'anagrafe il sabato per permettere ai cittadini di tirare gli orari fuori dagli certificati, sì, fuori dagli orari di lavoro, evidentemente spendo di più, però quello non è uno spreco, quello è un servizio aggiuntivo che do ai cittadini. Però professore, allora, la domanda successiva adesso è: ora che sappiamo che, facciamo un esempio, abbiamo detto di Napoli e Torino, Napoli spende più 34% rispetto al fabbisogno standard e Torino invece è virtuoso meno 58% o Bari meno 66%, sì, come facciamo a obbligarli innanzitutto nella finanziaria, nella legge di stabilità è stato previsto che una parte del fondo perequativo venga ripartito prioritariamente in base ai fabbisogni standard, quindi la perequazione, cioè quanto viene data ai comuni per portarli a erogare i servizi, tiene conto di questo dato, quindi da quest'anno questo dato del fabbisogno standard comincia a diventare operativo, sì, quindi un comune prenderà meno, ma poi è importantissimo questo dato. Dicevo, perché è un dato informativo, serve alla politica. La politica sappia. Il comune di Napoli deve fare, certo, i conti, ha finalmente certificato il fatto che, per esempio, sull'amministrazione generale spende di più. Certo, però serve a vedere i benchmark, sì, come fanno gli altri a fare così e noi perché facciamo in quest'altro modo. Poi lei dice la politica che deve intervenire, però quando io leggo che per esempio Roma, riguardo ai dati del vostro studio, spende il 7,1% in più del fabbisogno standard, e leggo oggi sul giornale Sole 24 Ore che il governo darà 400 milioni di euro euro a Roma per ripianare parte degli 867 milioni di euro di buco, allora che devo pensare? Che lì, professor Antonini, poi la politica che deve essere conseguenziale con i dati, e spesso non lo è. Permette anche di valutare poi dopo i comportamenti e quello che viene fatto. Se non avessimo il dato non lo sapevamo. Facevo l'esempio della Tari, cioè questa imposta in cui devi indicare il costo del servizio e quale servizio finanzi. Se ci fosse fabbisogno standard a fianco, capisce che il cittadino ha uno strumento di valutazione per capire se l'aumento di imposta che gli chiedono è giustificato oppure no. Assolutamente. Quindi sono dati, operazioni ma è chiaro, che una volta fatte sono fondamentali. Dal punto di vista dell'informazione, infatti noi siamo qui, come vede l'abbiamo chiamata, la trovavo come la notizia certamente quasi del giorno di ieri dai giornali e infatti a spiegarla. Ora che la politica sia conseguenziale però con questi dati, se no siamo sempre punto a capo. Vorrei sentire un'ascoltatrice che però mi dicono dalla redazione, cioè chiamato Camilla dalla provincia di Brescia, ma essere anche un sindaco, è vero? Sì, buongiorno. Sindaco di? Castelcovati. Castelcovati. È un piccolo, cioè un medio paese di 6.700 abitanti, sì. e abbiamo 15 dipendenti, di cui 4 part-time, quindi abbiamo 2,2 dipendenti per ogni 1.000 abitanti. Voi avete risposto al questionario che il professor Antonini dice, tutti i comuni? Noi abbiamo normalmente non so quante statistiche tutte le settimane da compilare, che poi non riusciamo a capire perché poi tutti gli organismi non si parlano, perché potremmo compilare un solo questionario e non far perdere tempo ai dipendenti, visto che poi ne abbiamo pochissimi. E che ci vuol dire in ambito di sprechi o possibili allora, sprechi? Allora, io volevo intervenire perché io sono stufa di sentire parlare di sprechi e che tutti vengano considerati degli spreconi, soprattutto nei comuni. Sprechi ce ne sono pochissimo, soprattutto nei comuni virtuosi del nord. No, noi ad esempio nel nostro comune, io personalmente non prendo neanche un euro, neanche un centesimo, tutte le spese sono a mio carico e i miei assessori si pagano tutto, telefono, benzina. Invece quindi vede venisse fatta una trasmissione sulla virtuosità dei comuni, in modo che non tutti vengano considerati. No, ma è chiaro, ma non tutti, no. Lei dice, e giustamente questa è colpa anche un po' dei giornali, fa notizia la regione dove si spreca. Che effetto fa a lei, visto che dice spendiamo tutto e paghiamo tutto da noi, leggere quello che succede in alcune regioni italiane? Certo, ti fa arrabbiare, anche perché se io penso che su 6.700 abitanti ho 2.000 disoccupati e quindi il mio compenso l'ho trasformato in buoni spesa per far mangiare la gente, certamente ti arrabbi e non sai più a chi chiedere. Lei dice fa molto arrabbiare. No, caro sindaco, ha perfettamente ragione. Io a questo proposito, Andrea De Franceschi, con lei voglio concludere perché il tempo purtroppo è tiranno. Sa che mi è arrivata nel frattempo una mail De Franceschi a dire: ma come, anche voi parlate con tutti i ladri come quelli dell'Emilia Romagna? Capisce che è questo tutti. Voi volete e promettete di fare una rivoluzione, ma mi dica un po', sta funzionando questa idea che voi dite noi siamo diversi, il Movimento 5 Stelle, o rischiate di essere inglobati anche poi voi in una conformità di informazione che butta dentro tutti come tutti i ladri nella politica? Ma il rischio che nell'informazione globale ci sia questa caduta è ovvio che c'è. Noi credo che dobbiamo distinguerci per i comportamenti, come dicevo prima, per la trasparenza e per la virtuosità che dimostriamo rendicontando di fronte ai cittadini tutto quello che facciamo, sia su internet che pubblicamente negli incontri, e le garantisco che la differenza viene colta, si capisce. Solo il pensiero che vengano pubblicati in 40 anni di storia della Repubblica i conti di un gruppo consigliare su un sito internet è già rivoluzionario, che i consiglieri regionali piuttosto che i parlamentari si siano ridotti lo stipendio è rivoluzionario. E cioè, quindi alla fine questa informazione arriverà. Io mi devo fermare qui ringraziando davvero tutti. Professor Antonini, quando ci saranno i dati definitivi a fine anno, se vuole è ben invitato per raccontarceli. E intanto grazie davvero, l'appuntamento è rinnovato a domattina alle 6:30. Alessandro Milan è un